Focus Economia. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, lunedì 10 agosto, 17:06 minuti, prima puntata di Focus Economia della settimana all'insegna dei dati sull'occupazione. Nei primi sei mesi del 2015, secondo l'INPS, i nuovi contratti a tempo indeterminato sono cresciuti del 36%, più 252.177, quelli a tempo determinato sono rimasti stabili e quelli di apprendistato si sono ridotti, meno 11.500. Da qui i numerosi commenti positivi, tra tutti quello del Presidente del Consiglio Renzi, che spiega: i dati diffusi dall'INPS dicono che siamo sulla strada giusta contro il precariato e che il Jobs Act è un'occasione da non perdere, soprattutto per la nostra generazione. Di opinione contraria alla CGIL, con gli incentivi aumentano le trasformazioni in nuovi contratti a tempo indeterminato, ma non l'occupazione, resta l'emergenza lavoro. Il lavoro e l'occupazione, il Jobs Act saranno argomento allora del nostro primo tema di Focus Economia. Prima permettetemi però un'osservazione sul lavoro: c'è la necessità di fare un po' d'ordine sulla diffusione dei dati. Quasi ogni settimana infatti abbiamo nuovi numeri sull'occupazione, quando l'Istat tra consuntivi e previsioni, quando l'INPS come oggi, quando il Ministero del Lavoro. Il rischio è che l'informazione su questo argomento venga troppo frammentata, rendendo difficile quindi ogni valutazione. Comunque questa è la situazione, ne dobbiamo prendere atto, aspettiamo anche i vostri commenti al 349-238-6666. Torneremo quindi sempre oggi ad accendere i nostri riflettori sulla Grecia. La scorsa settimana abbiamo visto il ritorno alle contrattazioni della borsa di Atene con risultati altalenanti. Oggi l'attenzione si sposta su due fronti: da una parte l'economia ellenica, dove continuano ad arrivare segnali preoccupanti; dall'altra si avvicina il 20 di agosto, quando la Grecia dovrà restituire alla Banca Centrale Europea 3 miliardi di euro. Nel frattempo sembrerebbe vicino un accordo tra Atene e i creditori sul nuovo pacchetto di aiuti dal valore complessivo di 86 miliardi di euro. Anche qui secondo me una contraddizione: da una parte la Grecia che deve restituire, dall'altra ci si mette d'accordo per altri miliardi da ottenere. Poi altra notizia interessante sempre su Atene: sembrerebbe che a fare gli affari migliori sulla crisi ellenica sia proprio la dura Germania, e qui ci sarebbe molto da commentare. Aspettiamo i vostri al 349-238-6666. Questi dunque gli argomenti principali di Focus Economia di oggi, senza dimenticare alle 17:35 come sempre i mercati, e legati a questi le performance della Cina, con Shanghai che cresce sui rumors di interventi di sostegno all'economia da parte della banca centrale. Mercati finanziari che hanno iniziato la settimana generalmente con segno positivo. Vediamo allora il FTSE MIB in questo momento più 1,15, Francoforte più 0,96, Londra negativa meno 0,09, Parigi più 0,72, Wall Street positivo, Dow Jones più 1,20, euro su dollaro 1,097. Questo è il nostro percorso di oggi. Abbiamo sentito quindi il sommario. Scriveteci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. In breve, che come sempre apriamo con le materie prime: oro in lieve rialzo a 1095 dollari l'oncia, petrolio a New York che sale dell'1,3% a 44,4 dollari al barile. L'economia internazionale con un rapido sguardo sempre tra Cina e Grecia, l'abbiamo detto, argomenti della nostra puntata. La Cina, nuovi dati macroeconomici non entusiasmanti per Pechino dopo quelli negativi sull'export di luglio, meno 8,3% rispetto all'anno prima. Ieri l'indice dei prezzi alla produzione di luglio è sceso del 5,4%. Dopo il meno 4,8 di giugno, facendo segnare il maggior calo dall'ottobre del 2009, superiore alle stime del mercato. E la cosa più interessante riguardo alla Cina è che Pechino starebbe prendendo in considerazione una forma di quantitative easing in salsa cinese, lo scrive Bloomberg, spiegando che il governo fa sempre più affidamento sulla banca centrale per sostenere i programmi volti a puntellare la crescita con un adattamento delle politiche attuate negli Stati Uniti e sappiamo in Europa. L'intenzione sarebbe quella di evitare di usare la leva dei tassi per non intaccare il livello del debito. La Banca Popolare Cinese infatti non ha un programma diretto di acquisti, ma sta pompando liquidità in quegli istituti in grado di trasmettere la politica monetaria e che finanziano i programmi governativi. E c'è già chi scrive al 349-238-6666, non ripeto nello specifico le parole scritte, ma comunque in generale parlare di Germania ha un po' stufato tutti, nel senso che si sa, secondo questo nostro ascoltatore, quali sarebbero le prepotenze di Berlino, ma comunque adesso sentiremo quali sono le notizie della Germania legate alla Grecia. Proprio di Grecia andiamo quindi a parlare. Atene, i creditori internazionali sarebbero vicini ad un accordo sul nuovo pacchetto di aiuti del valore complessivo di 86 miliardi di euro. Il prossimo 20 agosto la Grecia deve ripagare alla Banca Centrale Europea un prestito da 3 miliardi di euro. Venerdì prossimo i ministri delle finanze europei dovrebbero riunirsi per dare il via libera all'eventuale intesa, consentendo così il rispetto dei tempi per il pagamento. Dall'economia ellenica continuano però ad arrivare segnali preoccupanti. La produzione industriale è calata in giugno del 4,5% rispetto all'anno prima, mentre i consumi di elettricità sono diminuiti dell'8%. I creditori si attendono che il PIL cali quest'anno del 2-3%, una stima che alla luce delle ultime indicazioni appare piuttosto ottimistica. E poi la Troica e Bruxelles lavorano ad Atene giorno e notte, stanno scrivendo in queste ore sia il pacchetto addizionale di misure che la Grecia deve approvare prima dell'accordo, sia il memorandum, lo ha detto un portavoce della Commissione, spiegando che Bruxelles è convinta che un'intesa sia possibile entro agosto e preferibilmente entro il 20. Grecia e Berlino. Sul terzo pacchetto di aiuti alla Grecia vanno fatte valutazioni attente ed esaustive, lo ha detto il portavoce del governo tedesco Seibert oggi a Berlino, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che questa è la priorità. Veniamo quindi agli interessi della Germania in Grecia. Fraport, la società di gestione dello scalo di Francoforte, ha messo gli occhi sugli aeroporti di 14 isole greche e quanto riporta il Welt am Sonntag, spiegando che l'amministratore delegato di Fraport è stato recentemente ad Atene per esplorare la possibilità di un cambio di proprietà degli aeroporti. Prima del blocco delle privatizzazioni, Fraport a novembre 2014 era già stato scelto come investitore privilegiato per concessioni di 40 anni su 14 scali greci da Creta a Santorini, da Mykonos a Salonicco. E questa poi la notizia più gustosa: la Germania è il paese che più si è avvantaggiato economicamente dalla crisi ellenica, quanto emerge da uno studio dell'Istituto Tedesco di Ricerca Economica LWH. Dal 2010 Berlino avrebbe risparmiato circa 100 miliardi di euro di tassi di interesse grazie alle riduzioni decise a più riprese dalla Banca Centrale Europea. Questo risparmio supera i costi della crisi, anche se la Grecia non dovesse fare fronte ai propri debiti, scrive l'istituto. Quindi su questo ci sarebbe molto da dire. Poi velocemente, l'OCSE in Francia e Italia, così come per l'insieme dell'Eurozona, il superindice mostra una crescita in consolidamento, lo scrive l'OCSE in una nota sui dati di giugno. Per la Germania è atteso uno slancio di crescita stabile, mentre per Stati Uniti e Gran Bretagna il superindice mostra un'attenuazione sui livelli intorno al trend di lungo termine. E poi l'Italia, con le parole del Presidente del Consiglio Renzi, andiamo dai brevetti all'occupazione, tema che affronteremo tra breve nel nostro primo spazio. Per la prima volta dopo 5 anni cresce il numero di brevetti depositati, più 2,8%, la volta buona, l'Italia riparte, scrive Renzi. E poi ancora la notizia della ripresa dei brevetti compare sul Sole 24 Ore di oggi, che specifica anche come l'area più dinamica sia il centro Italia, più 3,8%, la Lombardia rimane di gran lunga la regione dove si registrano più brevetti, il 30% del totale, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Piemonte. In Sicilia e Calabria i brevetti depositati lo scorso anno sono stati meno di 80, 93 quelli della Campania, 112 in Puglia, 804 nel Lazio. E poi Tari sempre più cara al sud, oltre al danno le beffe. Cittadini non di rado alle prese con emergenze rifiuti si trovano a dover sopportare i rincari più marcati della tassa dei rifiuti, come rileva oggi il Sole 24 Ore. Comuni come Reggio Calabria o Palermo hanno alzato la Tari rispettivamente del 148 e del 50% dal 2010 ad oggi. A livello nazionale il tributo è cresciuto in media del 20% e oggi garantisce un gettito vicino agli 8 miliardi di euro. Il comune dove la tassa è più salata è Cagliari, 497 per un appartamento di 100 metri quadri, abitato da 3 persone. Seguono Salerno, 468 euro, Reggio Calabria, Benevento, Napoli. Roma è nona posizione, 396 euro, Torino in 25esima, 342 euro, Milano in 28esima, 329 euro. I capoluoghi dove il tributo è più leggero sono Isernia, Vibo Valentia, Udine e Belluno, dove non si arriva a 170 euro. I tedeschi predicano bene, razzolano male, ci scrive un nostro ascoltatore al 349-238-6666. A vedere i conti di Deutsche Commerzbank c'è da mettersi le mani nei capelli. E quindi questi un po' i vostri umori sulla Germania. Bene, la Germania ha sempre fatto buoni affari con la Grecia, dov'è la novità? Mi si chiede, beh, la novità è quella che si fa molto i duri sul rientro dei crediti, poi si dovrebbe avere forse un tatto maggiore nell'entrare in un paese comunque in difficoltà. Andiamo velocemente sempre su notizie relative alla crisi. Per le grandi imprese che producono in Italia l'anno scorso le vendite sono scese del 2,2%, del 4,3% sul solo mercato interno, con l'occupazione in calo dell'1,1%, lo afferma un rapporto di ricerca e studi di Mediobanca, con stime per il 2015 non molto diverse. Il miglioramento più probabile è nei soli investimenti. Una notizia che abbiamo ascoltato poco fa anche nel GR di Radio 24, il 70% di quanto prodotto dalle grandi imprese italiane è estero su estero, senza coinvolgere impianti e manodopera nel paese, anche perché i margini di redditività sono la metà di quelli oltre confine, lo afferma ricerche e studi di Mediobanca, secondo il quale il ritorno sul capitale è del 5,2% contro il 14,3% all'estero. E queste dunque le notizie in breve, ora il primo tema di Focus Economia. Tema di Focus Economia dedicato all'occupazione, ai dati diffusi oggi dall'INPS, li ricordo velocemente, saluto però nel contempo Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore, buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio a voi. Davide, leggo e ricordo velocemente i primi dati diffusi oggi dall'INPS. Nei primi 6 mesi del 2015, secondo l'INPS, i nuovi contratti a tempo indeterminato sono cresciuti del 36%, quelli a tempo determinato sono rimasti stabili e quelli di apprendistato si sono ridotti. Un tuo primo commento su questi numeri? Ma dunque, sono numeri interessanti perché fanno una fotografia del primo semestre ed è una fotografia su un dato amministrativo tratto dagli archivi Uniemens dell'INPS. Cosa vuol dire? Vuol dire che non stiamo parlando di assunzioni annunciate, ma di contratti registrati in INPS, sui quali sono in corso contribuzioni versate. Quindi è un dato statistico piuttosto solido. Cosa ci dice? Ci dice che è in corso una prima trasformazione degli andamenti sulle assunzioni nel mercato del lavoro del nostro paese. Il 40% circa delle nuove assunzioni vengono fatte con contratti a tempo indeterminato. I dati ci dicono anche che stanno leggermente aumentando i full time e che stanno leggermente aumentando, cioè un 2% circa, i contratti con una retribuzione che si colloca tra i 1.500 e i 2.500 euro. Vuol dire che oltre alle trasformazioni dei tempi determinati in tempi indeterminati, c'è anche una riqualificazione anche dal punto di vista del reddito di questi contratti. Non mancano però dei dati, diciamo, negativi, che se vuoi ne parliamo. Assolutamente. Quindi due dati importanti, mi sembra di capire da quello che tu ci stavi dicendo: aumenta in generale proprio la qualità dell'occupazione, perché vi sarebbero più soldi in busta paga e poi vi sarebbe la trasformazione da una precarietà a un tempo indeterminato. Quindi questo è già un primo aspetto positivo che ci sottolinea l'INPS. Perché, per esempio, poi andiamo sui dati specifici, ma un tuo giudizio, perché recentemente non troviamo una stessa trasformazione nei dati diffusi, che ne so, dall'Istat o dal Ministero del Lavoro? L'Istat 10 giorni fa ha dato una congiuntura flash sul mercato del lavoro che dava un arretramento di 22.000 occupati, meno 0,1. Il dato dell'Istat è un dato che dà conto di tutte le forze di lavoro, cioè dà conto anche degli inattivi che decidono di mettersi a cercare un posto di lavoro, dà conto dei, diciamo, dell'intera base dei disoccupati, dà conto degli autonomi. Questo è un osservatorio che è riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato e su questo segmento molto particolare ma determinante dà una fotografia che dà conto dei contratti reali in essere registrati e sui quali è in corso una contribuzione che l'INPS registra mese dopo mese. Diciamo che sono due dati complementari. Il primo ci dice come il mercato del lavoro nel suo complesso ha ancora dinamiche di disoccupazione, quello dell'Istat ha ancora dinamiche di disoccupazione persistenti, purtroppo ancora forti dinamiche di disoccupazione di lunga durata. Questo qui invece ci dice che è in corso un forte flusso di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e ci dice che sui nuovi contratti a tempo indeterminato c'è qualche elemento qualitativo che ci fa ben sperare, un po' meno part-time involontario, un po' più di peso reddituale, e quindi speriamo che in qualche modo siano dei dati che ci confermano l'uscita da un ciclo vizioso di precarietà, certo, bassa produttività e contratti che finiscono subito, per andare invece in una situazione in cui ci sono contratti che durano un po' di più, si spera che producano un po' di più, che abbiano una produttività maggiore. Certo, Davide, prima di ricordare che i commenti che vi sono stati tanti, logicamente positivi da parte del governo, c'è anche un giudizio negativo della CGIL che tra poco ricordiamo, mi stavi anticipando, guarda, ci sono però anche degli aspetti negativi tra questi diffusi, sì, dall'INPS. Quali sono? Un dato che mi ha colpito particolarmente, che è stato introdotto in questo nuovo osservatorio, ricordiamolo, si chiama Osservatorio sul precariato, è quello relativo ai voucher. Nel primo semestre sono stati venduti quasi 50 milioni di voucher da 10 euro l'uno di valore nominale. Allora, stiamo parlando quindi di un valore complessivo di circa mezzo miliardo nel primo semestre dell'anno. Questo strumento, diciamo, per il lavoro accessorio, bisognerebbe capire meglio come viene utilizzato, se è solo lavoro accessorio o se dietro ci sono delle persone che fanno solo questo lavoro, quindi che stanno lavorando solo con voucher. Ecco, questo è un, tra virgolette, buco nero che andrebbe indagato meglio con dato statistico e dato amministrativo. Speriamo appunto che a settembre, con questa collaborazione rafforzata che è stata annunciata tra INPS, Istat e Ministero del Lavoro, si riesca a capire che cosa c'è dentro questa dinamica del lavoro accessorio, che è quasi raddoppiata, è aumentata del 75% rispetto al primo semestre del 2014, e si tratta di capire che cos'è concretamente. Che poi, per capire bene, il lavoro accessorio è comunque sempre una tipologia di lavoro precario, per quanto con questi voucher, quindi mi sembrerebbe che essere in contraddizione con la tendenza invece di andare verso contratti più a tempo indeterminato. Diciamo che il voucher ha di buono che fa emergere lavoro precario nero, nel senso che finalmente su questo c'è comunque una contribuzione che non è solamente, come dire, simbolica, ma è vera. Il problema è capire quando assume dimensioni così importanti, appunto, se tutti questi lavoratori che hanno svolto lavori di tipo accessorio con i voucher hanno fatto solo quello, oppure hanno fatto quello in aggiunta a qualcos'altro. Se per esempio, certo, ci sono molti giovani che stanno facendo qualche ora di lavoro, non lo so, in questo periodo dell'anno, nella ristorazione, nel turismo, nell'agricoltura, bene. Speriamo che non ci sia anche un qualche tipo di forma di lavoro reiterata, che quindi potrebbe essere fatta con dei contratti standard. Giustamente, giustamente. Per dare ulteriore stimolo alla nostra conversazione, prendiamo spunto dai commenti. Il Presidente del Consiglio dice: siamo sulla strada giusta contro il precariato, il Jobs Act è un'occasione da non perdere, soprattutto per la nostra generazione. Dall'altra parte la CGIL dice: con gli incentivi, immagino che si riferiscano al bonus famoso per l'esenzione triennale, esatto, adesso, di cui andiamo a parlare, aumentano le trasformazioni in nuovi contratti a tempo indeterminato, ma non l'occupazione, resta l'emergenza lavoro secondo la CGIL. Quindi, Davide, secondo la CGIL è solamente uno spostamento da bacini diversi del mondo del lavoro e degli occupati che noi conosciamo. Dicevamo prima che un flusso importante è determinato dalle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Non è un dato piccolo, nel senso che teniamo sempre conto che stiamo parlando di un mercato del lavoro sul quale viaggiano circa 2,2 milioni di lavoratori in cassa integrazione con contratto di solidarietà o con la NASPI. A questi aggiungiamo un altro paio di milioni e mezzo di lavoratori che stanno con full time che stanno facendo un part time involontario, cioè hanno avuto una riduzione dell'orario del lavoro non richiesta da loro, certo, ma è una necessità, per necessità dell'azienda. Allora, in un mercato del lavoro ancora così appesantito da forti numeri di lavoratori che non sono tornati a lavorare a tempo pieno, dati di questo tipo cominciano secondo me ad avere un significato. Per questo l'ipotesi di una conferma dello sgravio nel 2016 è un'ipotesi che io spero il governo calcoli, ecco, con serietà. E così anticipavi giustamente una mia domanda: le aziende chiedono che questi sgravi, quindi il famoso bonus, venga riproposto nel prossimo anno, ma è soprattutto un discorso di risorse, e questa è la prima domanda. E poi ti volevo chiedere quant'è merito effettivamente del Jobs Act e di questo bonus per questo mercato del lavoro che torna a muoversi? Dunque, la prima cosa, sicuramente, se noi arriviamo alla fine dell'anno con 1 milione circa di contratti che stanno beneficiando dello sgravio, della decontribuzione, cioè il dato Istat, INPS, chiedo scusa, di oggi ci dà conto anche proprio del tiraggio di questo esonero. Siamo arrivati nei primi 6 mesi a 674.800 contratti tra assunzioni e trasformazioni che in questo momento beneficiano dello sgravio. Se arriviamo a 1 milione alla fine dell'anno, vuol dire che l'onere sull'anno prossimo è di circa 5 miliardi e anche su quello successivo. Dati i vincoli di bilancio non sarà facile, però bisogna tener conto che è un incentivo che sta dando dei risultati in un mercato del lavoro con i numeri che dicevamo prima, per cui effettivamente diciamo che oltre che le imprese, come dire, se uno guarda alle risorse disponibili, alle scelte di policy da fare, effettivamente questa è interessante, diciamo. L'altra domanda: quanto è merito del Jobs Act questo mercato del lavoro che torna a muoversi, ma anche del bonus di cui parlavi. Ma dare un peso alla, diciamo, alla regulation sui licenziamenti, quindi il contratto a tutele crescenti rispetto al bonus fiscale è difficile. C'è sempre in questo tipo di dinamiche un fattore neutro, nel senso che ci sono sempre da tener conto che ci sono assunzioni che vengono fatte a prescindere dallo strumento che è stato messo in campo, cioè l'ipotesi di opzione zero, cioè politiche invariate, c'è sempre, quindi non è tutto dovuto a questo strumento qui. Diciamo che questo è un tipo di analisi che si può fare alla fine di un periodo dato, con un'analisi approfondita su dei microdati, eccetera, anche con delle analisi, con dei focus sulle scelte che vengono fatte dalle imprese. Per il momento noi dobbiamo registrare dei flussi, questi flussi sono fotografati da un dato statistico da una parte, da un dato amministrativo dall'altra, ci stanno dando dei numeri che hanno un qualche peso in un mercato del lavoro che è ancora molto appesantito, dicevamo, da cassa integrazione, mobilità, eccetera. Per cui sono dei numeri che vanno presi in seria considerazione nelle scelte da fare in stabilità. Assolutamente. E tanti i messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore ci scrive che i voucher vengono regolarmente usati al posto di contratti più standard e nella maggior parte dei casi consentono di camuffare il lavoro nero. Questo è un timore di cui parlavamo, ne parlava Davide Colombo. E poi dice: perché date tanta pubblicità alle critiche della CGIL? Beh, perché comunque oggi oggettivamente i commenti sono tutti positivi su questi dati da parte del governo, anche per correttezza, per dare una voce discordante. Davide, soprattutto tu che lavori quotidianamente con l'amministrazione pubblica e ti occupi sia dei conti ma anche di questo continuo flusso di dati che arrivano da varie fonti, dicevamo INPS, Istat, Ministero del Lavoro, quanto è necessario che si arrivi ad una convergenza di questi dati, perché sennò oggettivamente ogni settimana saremo qui a commentare i dati del lavoro, una volta positivi, una volta negativi, con tutta la polemica politica che poi ne segue. Sì, in effetti questo è un tema che è al centro del dibattito sulle politiche del lavoro. I dati Istat solidi sono i dati dei trimestri. Noi quando registriamo il dato della congiuntura flash mese su mese vediamo una forte volatilità, ma proprio perché, dicevamo prima, si tiene conto con un campione particolare dell'intera forza di lavoro e quindi sull'intera forza di lavoro vediamo delle forti fluttuazioni. Questi sono dati che non hanno una base campionaria ma sono l'intero stock dei contratti. E dei flussi che si determinano sui contratti, per cui diciamo questi qui hanno un peso diverso. Diciamo che il set di informazioni che sarebbe molto utile avere è un equilibrio tra queste due informazioni. Stanno lavorando Ministero del Lavoro, Istat e INPS. È stato annunciato un prodotto comunicativo, un momento comunicativo, diciamo, di sintesi su questi due tipi di fonti. Vediamo a settembre se riescono a realizzarlo. Certo è che anche noi che facciamo i giornali e che facciamo informazioni dovremmo leggere con un qualche distacco in più soprattutto il dato mensile, ecco. Quindi è importante fare riferimento a quello trimestrale e forse meno a quello mensile, mi sembra, esatto, di capire. Per quello che riguarda i dati statistici dell'Istat, sicuramente sono soggetti a una fluttuazione minore. E guarda, forse il presidente dell'Istat ci stava ascoltando e dice: c'è il rischio di creare confusione diffondendo dati sul lavoro che derivano da fonti diverse, una che guarda le teste e l'altra ai contratti. E quindi il presidente nazionale dell'Istat, Giorgio Alleva, riconosce quindi le criticità e annuncia una soluzione. Stiamo ragionando su un progetto con Ministero del Lavoro, INPS e INAIL per rendere coerenti e integrare i dati proliferati, quindi diffusi in questo periodo. Quindi speriamo che vi sia una comunicazione su questo fronte più raccolta, che ci sia più utile a tutti quanti, a partire da chi è interessato all'occupazione e alla ricerca di un posto di lavoro. Grazie a Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Uno sguardo velocissimo Piazza Affari, FTSE MIB più 1,10%, dopo meteo e pubblicità la borsa, approfondiremo la giornata a Piazza Affari, la Cina e a chiudere la Grecia. Focus Economia. Di nuovo insieme 17:38 Focus Economia, uno sguardo veloce ai tanti sms al 349-238-6666. A me sembra che si arrampichino sugli specchi per far vedere una ripresa che non esiste, spero di sbagliarmi. Saluti da Paolo, questi sono tutti sms legati al nostro primo tema sull'occupazione. Ci sono ancora molte aziende che assumono operai con contratti settimanali ed ancora messaggi molto critici con il sindacato, l'ipocrisia dei sindacalisti che dall'alto dei loro stipendi, vedi CISL e la polemica degli ultimi giorni, con che faccia difendono i poveri operai, scrive Franco. Ed ancora la CGL critica, come giusto che sia, ma se siamo arrivati a questo punto è anche colpa loro e di tutto il sindacato. Quindi questi un po' degli sms al 349-238-6666 sul nostro primo tema, che è stato sui nuovi dati sull'occupazione. Siamo in questo momento invece alla borsa, ci concentriamo sulle contrattazioni di Piazza Affari e lo facciamo con il collega Ceo Condina di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ceo, allora, bene i mercati sia in Europa che in America ed Asia, c'è ancora attesa per l'accordo però sulla Grecia. Sì, diciamo un'attesa abbastanza estenuante per questo accordo, potrebbe essere forse la volta buona, è una prospettiva scontata da Wall Street, sicuramente da Wall Street, che ha oggi aperto in forte rialzo anche dopo le dichiarazioni del vicepresidente della Fed Stanley Fischer, che ha detto che è tutt'altro che scontato un rialzo dei tassi americani a settembre. Questa è sicuramente una prospettiva che diciamo è piaciuta a Wall Street. Wall Street ha trainato con sé al rialzo i principali listini continentali, che infatti hanno chiuso sui massimi di seduta. Milano è sostanzialmente la migliore del vecchio continente, guadagna in chiusura l'1,1%, se si fa eccezione per Madrid, che ha segnato più 1,2%, anch'essa in chiusura. Male i petroliferi, sotto pressione Eni e Saipem, mentre Brent e WTI restano su livelli molto bassi. Sì, diciamo che la flessione dei petroliferi è stata molto consistente fino al primo pomeriggio, poi il petrolio a Wall Street è tornato a guadagnare terreno insieme al progresso degli indici, e quindi anche Eni alla fine ha chiuso a più 0,5%, anche se molto peggio rispetto al benchmark, e anche Saipem non ha chiuso in modo particolarmente brillante, più 0,06%. In questo momento il WTI a New York guadagna quasi 2 punti percentuali. E c'è poi invece chi guadagna comunque anche dal petrolio basso, ed è chi è attivo nella raffinazione del petrolio, guadagnando molto e raggiungendo i massimi dal 2010, parlo di Saras. Con il prezzo del greggio basso aumentano infatti i margini di raffinazione. Assolutamente sì, Saras oggi ha fatto segnare un altro più 7% e al top, al massimo dal gennaio 2010. Molti analisti consigliano di acquistare il titolo che è a quota 2,2 euro. Ricordiamo che da inizio anno ha guadagnato il 166%, chiaramente Saras riesce ad acquistare petrolio a basso prezzo e riesce poi a raffinarlo ottenendo dei margini importanti e significativi, e questo poi viene scontato dai valori di borsa che esaltano questa prospettiva. Ed ora il Banco Popolare che guadagna dopo la semestrale diffusa venerdì a mercati chiusi. Sì, una semestrale oltre le attese, soprattutto per quanto riguardava l'utile netto del secondo trimestre, che era superiore alle attese degli analisti. Una semestrale che sono state in ogni caso decisamente importanti, positive, e quindi oggi, appena si è aperto il mercato, il titolo è balzato a rialzo. C'è da registrare comunque una buona seduta per tutti i titoli finanziari, per esempio c'è Generali, certo, che guadagna l'1,5%, Unicredito e Intesa hanno comunque rialzi superiori al punto percentuale, anche se spicca ovviamente la performance del Banco Popolare. E Montepaschi ai massimi da maggio, il mercato già aveva premiato il titolo la scorsa settimana e mi sembra credere ancora nella ripartenza. Sì, diciamo che c'è forte ottimismo sul mercato e anche da parte degli analisti. Oggi in particolare c'è uno studio di Exam BNP Paribas che parla addirittura di una resurrezione del Monte dei Paschi dopo l'ennesimo aumento di capitale che è stato chiuso negli ultimi tempi. Il mercato sembra crederci, e come dicevi tu è ai massimi da maggio, oggi ha chiuso in rialzo dell'1,2%, insomma soltanto i prossimi mesi però ci potranno dire se queste previsioni si riveleranno azzeccate o meno. E poi in chiusura, CEO, due notizie firmate New York, Buffett che compra Precision Cast Parts, e anche qualcosa si muove nell'editoria per il Financial Times con il magazine The Economist. Beh sì, per quanto riguarda la prima, diciamo che l'acquisizione più costosa effettuata da Warren Buffett attraverso la sua società, vedremo se anche questa volta diciamo confermerà la sua nomea di grande guru della finanza, visto che riesce sempre, certo, a comprare a livelli relativamente bassi e poi a rivendere con grandi plusvalenze. Per quanto riguarda la seconda notizia, insomma, il mercato è in grossa evoluzione, ne sono prove anche gli avvenimenti delle ultime settimane, e sicuramente nei prossimi mesi saranno anche altre sorprese, diciamo, in questo settore, anche a livello internazionale. Grazie a Ciao Condina, del collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Restiamo sulla finanza con uno sguardo alla Cina, e ringrazio il collega del Sole 24 Ore Moria Longo per essere con noi. Buon pomeriggio, Moria. Buon pomeriggio a tutti. Parliamo della Cina, ultimamente dati contrastanti per quanto riguarda i mercati di quel paese, oggi invece un'inversione di tendenza, ma qualcosa si sta muovendo in positivo, per quale motivo? Ma diciamo che in positivo non si sta muovendo molto in realtà. Il motivo per cui oggi, o meglio stanotte, la borsa di Shanghai ha guadagnato 4,9% è perché sono usciti in questi giorni, in queste ultime ore, dei dati economici ancora negativi che segnalano una frenata dell'economia cinese, e quindi il mercato azionario scommette che la banca centrale o il governo o qualcuno interverrà per stimolare ulteriormente, certo, l'economia. Quindi questa aspettativa di stimoli ha fatto volare la borsa di Shanghai. In realtà l'economia cinese sta andando abbastanza male. Nel primo e nel secondo trimestre è cresciuta del 7% tondo, virgola 0,0, proprio, che è esattamente l'obiettivo del governo. Questo numero ha già un po' insospettito molti, perché è curioso che per due trimestri di fila esca esattamente quello che il governo prevede o comunque vuole raggiungere, e si sono riintensificate un po' le voci che si rincorrono spesso in Cina, che i dati pubblici sul PIL, cioè sull'andamento della crescita economica, siano in realtà poco attendibili, se non in un certo modo lievemente truccati, anche perché altri indicatori che solitamente sono strettamente correlati al PIL in realtà stanno calando molto più velocemente. Per esempio il consumo di elettricità, visto che la Cina è un paese manifatturiero, quindi consuma, certo, molta, quindi elettricità, i consumi dovrebbero essere ai massimi. I consumi negli ultimi 10 anni sono sempre andati di pari passo con il PIL. Nell'ultimo anno e mezzo non è più così, il consumo di elettricità è sceso moltissimo, mentre l'andamento del PIL, sebbene sia sceso anche quello, non è sceso altrettanto. E poi ci sono molti altri dati, per esempio appunto in questi giorni sono usciti i dati sull'export. La Cina è il primo paese esportatore al mondo, quindi la sua economia si basa molto sulle esportazioni. Ebbene, a luglio le esportazioni sono calate dell'8,3% e il mercato immobiliare sta calando fortemente, quindi tutte le componenti del PIL calano, ma il PIL non cala altrettanto. Quindi questo solleva un po' di dubbi, diciamo di interrogativi, e quindi l'economia, che già sta rallentando, potrebbe rallentare ulteriormente. E quindi a fronte di questo rallentamento si pensa potrebbe entrare la banca centrale cinese a dare liquidità, un po' come è successo nei vari anni sia negli Stati Uniti che poi in Europa. Sì, in realtà la banca centrale l'ha già fatto moltissimo negli ultimi mesi, è intervenuta moltissime volte con varie misure di stimolo, sta già facendo qualcosa di simile, una manovra abbastanza simile a quella che sta facendo l'Europa per stimolare l'economia. Il governo, lo Stato è intervenuto più volte per sostenere la borsa, che negli ultimi mesi è crollata in maniera violenta, quindi l'impegno pubblico a sostenere l'economia è forte. Il problema è che l'economia cinese è un'economia altamente squilibrata, piena di debiti. Il debito, certo, delle imprese, pensate che il debito delle imprese nel 2007 era il 98% del PIL, a fine 2014 era quasi al 160% del PIL, non dico che raddoppiato, ma quasi. Quindi è un'economia iper indebitata. e un'economia iperindebitata sta in piedi quando la crescita è forte. Se la crescita rallenta, questo ovviamente diventa un problema per le aziende che vendono meno, producono meno e così via, e quindi il loro debito diventa sempre meno sostenibile. E qui parliamo, Moria, soprattutto di un rallentamento dell'export, o anche il mercato interno sta facendo la sua parte su questo andamento? Il mercato interno è quello che la Cina sta cercando da anni di stimolare, perché la Cina vuole diventare un'economia meno esportatrice e più consumatrice, però stanno frenando entrambi. Tra l'altro, il fatto che negli ultimi mesi la borsa di Shanghai sia crollata, nella borsa di Shanghai ci sono 90 milioni di persone, di cittadini, piccoli risparmiatori cinesi che ci mettono i soldi, che fanno trading online e che ci mettono i propri risparmi. Sebbene la borsa sia piccola rispetto all'economia, a differenza per esempio della borsa americana che domina e fa il bello e il cattivo tempo nell'economia americana, quella cinese non è così importante nell'economia cinese, ma comunque un tracollo così dell'economia sicuramente non fa bene ai risparmiatori, quindi alla loro capacità di consumo e così via. Quindi certo, stanno frenando entrambi, e poi stanno frenando moltissimo le importazioni. La Cina è il più grande consumatore di materie prime, consuma il 40% del rame mondiale, importa certo materie prime da tutto il mondo. Siccome la sua economia rallenta, la sua attività industriale rallenta, importa meno materie prime, e questo è il motivo per cui stanno tracollando i prezzi di molte materie prime, e questo diventa un problema globale, perché ci sono paesi nel mondo che vivono di esportazione di materie prime, e la Cina è il loro primo acquirente, il loro primo cliente, diciamo. Quindi se la Cina compra meno, ci sono paesi come l'Australia, come molti paesi latinoamericani o di vari paesi, soprattutto paesi emergenti, che hanno seri problemi. E questo, secondo te, rientra anche, per esempio, a parte il surplus di offerta del petrolio, la Cina influisce anche con la sua domanda evidentemente minore anche sulla quotazione ai minimi di questo periodo del petrolio? Brevissimamente, Moria. È uno dei motivi, anche se il crollo del prezzo del petrolio è dovuto in realtà a un eccesso di produzione, perché negli Stati Uniti si sta producendo tantissimo petrolio attraverso questa nuova tra virgolette attività di estrazione che si chiama frantumazione idraulica. Molte società stanno estraendo petrolio, gli Stati Uniti sono diventati grandi produttori di petrolio. Adesso, tra l'altro, l'Iran tornerà piano piano a riesportare petrolio, quindi la produzione di petrolio è enorme, molto enorme, maggiore della domanda di petrolio, in un contesto, ripeto, di economia frenata, soprattutto quella cinese. Quindi la Cina influisce sul petrolio, ma soprattutto su altre materie prime, ricordavi, soprattutto il rame. Grazie a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi parleremo della Grecia. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, 17:51, di nuovo insieme. Prima di parlare della Grecia e degli accordi passati, di quelli soprattutto futuri, velocemente alcuni sms arrivati al 349-238-6666. Un ascoltatore addirittura ci scrive: quando la borsa cinese crollerà, si riferisce evidentemente al nostro approfondimento di pochi istanti fa sulle difficoltà dell'economia cinese, allora scrive, le riforme sul lavoro di Renzi sarà carta straccia, perché si è puntato tutto sull'export. Effettivamente direi che non è così, gli interventi del governo sono un po' a 360 gradi, non è un fatto del governo Renzi o del governo Berlusconi, comunque la nostra economia è storicamente molto attenta alle esportazioni, e se le imprese sono riuscite a salvarsi in questi anni di crisi lo devono proprio alle esportazioni, quindi Cina o non Cina. Siamo ora quindi all'ultimo tema, parlavamo della Grecia, e con noi Roberta Miraglia, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Roberta. Buon pomeriggio a voi. Roberta, allora, la Grecia è un argomento molto complesso che evidentemente, non dico quotidianamente, ma almeno due o tre volte a settimana dobbiamo riprendere per fare un po' il punto della situazione, su quanto è successo e su quanto succederà, perché poi è difficile anche per noi che siamo un po' più attenti alla situazione andare dietro ai vari appuntamenti. Allora, per fare un po', per mettere dei marchi alla situazione della Grecia, dopo il famoso accordo post referendum di Tsipras, quali sono le prossime tappe che attendono la Grecia e la Commissione europea? I greci e le istituzioni europee stanno negoziando in queste ore il cosiddetto bailout, il terzo salvataggio della Grecia. È una cifra molto importante, si parla di 86 miliardi di euro che dovrebbero essere dati alla Grecia in cambio di riforme nel giro di 3 anni. Sì. Ora, su questo fronte si stanno concentrando in queste ore i colloqui dei ministri del governo di Alexis Tsipras e i rappresentanti di Commissione Europea, Banca Centrale e Fondo Monetario. Sono ad Atene e dicono che probabilmente già domani, martedì, dovrebbe esserci questa bozza di memorandum firmata e addirittura sarebbe una tabella di marcia molto, molto stretta, perché entro giovedì al massimo la Grecia vorrebbe approvare in Parlamento il primo pacchetto di riforme, anzi sì, sostanzialmente una legge con 2 articoli, pare. La prima che dice approviamo il memorandum d'intesa e insieme il prestito, e l'altra invece una che sarebbe sulle cosiddette azioni prioritarie, perché la Troica sta chiedendo ad Atene di mettere subito in campo alcune riforme, soprattutto fiscali. Ecco, questi sarebbero i tempi, perché poi venerdì già si potrebbe riunire. Quindi, dice. Certo, quindi tutto abbastanza ravvicinato, quindi prima di Ferragosto, se non i giorni subito dopo Ferragosto. Sì, esattamente, perché proprio il venerdì prima di Ferragosto si dovrebbe riunire a questo punto l'Eurogruppo per dare i ministri delle finanze, per dare il via libera però all'accordo, perché naturalmente dobbiamo ricordare che le istituzioni europee, la cosiddetta Troica ed Atene, mettono insieme un accordo, un memorandum, però il via libera è politico e viene da parte dei paesi, e qui ci potrebbero essere dei problemi. Certo, ma ecco, il governo Tsipras ha fatto i compiti a casa, come si suol dire, le riforme annunciate, valutate poi dal Parlamento di Atene, soddisfano al momento la cosiddetta Troica? Il primo pacchetto, quello votato subito dopo l'accordo di luglio, quello che impedì il default della Grecia, sono state votate, ma sono delle riforme ancora come dire, di buone intenzioni, codice di procedura civile, qualcosa sull'IVA, qualcosa sì, sulle pensioni, ma poco ancora. Mentre invece vedo che adesso, almeno stando alle indiscrezioni, ci si concentrerebbe molto su una serie di riforme che riguardano le entrate fiscali, l'anticipo per esempio delle tasse in maniera più elevata, come succede negli altri paesi, da parte dei lavoratori autonomi, e poi le pensioni. Ancora una volta, sulle pensioni non c'è stata molta, certo, chiarezza. Lì ci vuole un piano sostenibile, così sottolineano soprattutto i tedeschi, un piano di spese pensionistiche sostenibili. Quindi ecco, Atene, il governo mi sembra di capire che deve dimostrare molto ancora dall'IVA alle pensioni. Resta, per esempio, mi aveva molto colpito, ma credo un po' tutti, la fiscalità differenziata per i grandi armatori. Sotto quell'aspetto lì vi sono notizie o tutto rimasto a livello di annuncio, Roberta? Per il momento sono state varate delle leggi che prevedono delle riduzioni delle esenzioni fiscali, ma un altro capitolo, oltre che gli armatori, che colpisce indubbiamente, riguarda anche, certo, più trasversalmente parti della società greca meno fortunate, ma che comunque beneficiano di sostanziosi sconti, per esempio tutti i sussidi all'agricoltura. Questo è un altro degli elementi che viene messo tra le azioni prioritarie da votare subito da parte del Parlamento di Atene. E per quanto riguarda, essendo in tema estivo, anche la fiscalità delle varie isole, avevo letto anche di vere e proprie proteste degli operatori delle isole un po' più famose, che evidentemente riescono a raccogliere durante i mesi estivi quello che evidentemente non entra durante l'inverno. Questi operatori hanno capito l'importanza di comunque concedere qualcosa al fisco di Atene? Questa della riforma dell'IVA e quindi dell'eliminazione delle agevolazioni fiscali per le isole e per altri settori fortunati, quelli del turismo come la ristorazione, sono state incamerate dalla Troica e dall'Europa, perché quando ci si trova sull'orlo del default, io non so con precisione se poi gli albergatori, certo, si siano rassegnati. Resta che nel momento in cui non dovessero poi essere messe in atto queste riforme, senza i prestiti dell'Europa la Grecia andrebbe in default, e quindi stiamo trattando adesso di un prestito complessivo sui 3 anni, ma soprattutto di avere un'anticipazione prima del 20 di agosto, perché al 20 di agosto scatta l'altro pagamento che per la Grecia è necessario per non finire in default, quello alla Banca Centrale Europea di circa 3 miliardi. Infatti qui stavo arrivando per farti l'ultima domanda. Ecco, ricordiamo la tagliola del 20 di agosto per una restituzione di 3 miliardi di euro. Sarà in grado Atene di restituire queste cifre? Naturalmente non è in grado se non interviene il fondo salva stati. risultati in due forme possibili, di questo che si sta discutendo. Ora il punto non è più se daremo o meno come istituzioni europee un aiuto ulteriore alla Grecia, perché verrà dato o sotto forma di prestito ponte, come è già stato, e quindi le si danno 5 o 6 miliardi per pagare anche i 3 miliardi alla BCE, oppure quello che vorrebbe Tsipras in questo momento, far passare queste riforme immediatamente, il memorandum, e avere ben più soldi per 3 anni. Grazie a Roberta Miraglia, collega del Sole 24 Ore. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.